Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Dico solo, facciamo attenzione. Le uniche misure oggi efficaci a cui affidiamo l'opera di contrasto della diffusione del virus sono il distanziamento fisico e l'utilizzo, ove necessario, delle mascherine di protezione. Abbandonare quindi il rispetto di queste precauzioni perché si ritiene, ad esempio, che oggi il virus sia scomparso è una grave leggerezza. E questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è il monito del Presidente del Consiglio Conte durante la conferenza stampa che ha tenuto questo pomeriggio in occasione di questa terza tappa della fase 2, cioè la ripresa della libera circolazione tra le regioni. Quindi ha detto, insomma, prudenza, i dati sono molto incoraggianti, però non bisogna improvvisamente pensare che sia un libero tutti. E poi ha parlato delle misure a cui il governo sta lavorando per affrontare la crisi economica, ha assicurato che a settembre riaprirà la scuola, insomma tanti aspetti di cui poi parleremo nel corso di questa puntata. E quali regole restano a questo punto, essendo ormai nella terza tappa della fase 2, per l'appunto, con la libera circolazione tra le regioni? Cadono diverse regole come l'autocertificazione, eccetera, però faremo un po' un riepilogo di quello che rimane, diciamo, in auge. Fra l'altro, oggi giornata in cui il Presidente della Repubblica Mattarella ha nominato 57 cavalieri al merito della Repubblica. Ce ne sono molte persone che appartengono all'ambito sanitario, ma non solo, anche persone che hanno fatto le pulizie, hanno assicurato dei servizi essenziali in questo periodo difficilissimo durante il lockdown. E c'è anche una scienziata del Spallanzani di Roma che sarà ospite qui a Effetto Notte. Insomma, tante cose da raccontarvi. Per i vostri commenti, lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666, 349-238-6666. Poi vorrei trovare anche il tempo per collegarci con gli Stati Uniti, perché stanno succedendo cose piuttosto inedite, oltre che molto gravi. Sintesi della giornata. I dati sul coronavirus in Italia: sono 71 i morti nelle ultime 24 ore nel nostro paese, stabile l'aumento dei contagi, 321, ma oltre il 70% in Lombardia, 9 regioni senza nuovi contagi e 12 senza vittime. La terza tappa della fase 2, gli italiani tornano a spostarsi fra le regioni, Conte invita alla prudenza e dice che questa crisi deve essere un'occasione per ridisegnare il paese. L'Austria non riapre il confine con l'Italia, dal 15 giugno invece apre quello tedesco. Il ministro Di Maio dice che gli individualismi danneggiano l'Europa. La battaglia contro il coronavirus: Mattarella nomina 57 cavalieri al merito tra i cittadini che si sono distinti durante l'emergenza. Tra questi Maria Rosaria Capobianchi, scienziata dello Spallanzani, sarà ospite qui a Effetto Notte. Stati Uniti, sulle proteste per la morte di George Floyd, il capo del Pentagono si smarca dal presidente americano Trump. Mare: il 95% delle nostre acque di balneazione di qualità eccellente, Sardegna e Puglia le migliori. Partiamo quindi, come sempre, dai dati sul coronavirus in Italia forniti quotidianamente dalla Protezione Civile. In Italia sono stati nelle ultime 24 ore 71 i morti, salgono così nel numero totale dall'inizio della pandemia nel nostro paese a 33.601. 9 regioni sono senza nuovi contagiati e 12 senza vittime. Il discorso di Conte di oggi: la crisi deve essere l'occasione per ridisegnare l'Italia grazie a una nuova unità tra le forze politiche e sociali. Questo è il messaggio, appunto, del Presidente del Consiglio Conte nel giorno della riapertura dei confini tra le regioni. Ai partiti la richiesta di collaborare alle riforme: fisco, diritto allo studio, alta velocità di rete, utilizzo dei fondi europei. Un piano di rilancio da fare con le opposizioni, dice Conte, che annuncia l'uso da parte dell'Italia di fondi SURE e BEI e rinvia al Parlamento invece la decisione sul MES. Quanto all'epidemia, l'avete sentito, dal 4 maggio dice i dati sono incoraggianti, ma occorre continuare a rispettare le regole. Una leggerezza sarebbe allentare la sicurezza, sottolinea. A settembre comunque sicuramente, dice, riapriranno le scuole, e fa anche una piccola apertura sul ponte sullo stretto. Queste quindi le parole in sintesi del Presidente del Consiglio, sul quale torneremo nel primo giorno di riapertura dei confini regionali. Per tanti, finalmente l'occasione per rivedere fidanzati, familiari, amici. Il nostro racconto da Milano a Roma. Al fischio dei treni in auto negli aeroporti aperti, l'Italia delle regioni riparte il 3 giugno, la data segnata sul calendario per il ritorno in quelle di origine, al nord, al centro, al sud, o per spostarsi per cercare lavoro o lavorare. Anche in metropolitana, dopo cali di oltre il 50%, i passeggeri sono di più rispettosi delle regole di distanziamento. Mascherine e pochi guanti ormai verso le stazioni ferroviarie Garibaldi e Centrale. Sono emozionati, arrivano controlli ai bagagli, tanti in attesa seduti o in piedi a distanza nei posti segnati da adesivi, perché le stesse ferrovie hanno invitato ad anticipare i tempi per i controlli. Io sto andando a Bologna, dopo 3 mesi mi ricongiungo con il mio amoroso, dovevamo sposarci quest'anno ma forse è tutto rimandato. A quando? Abbiamo pensato a settembre, però devo sposarmi tra 16 giorni. Più che vacanza sto tornando a casa, io sono calabrese, dall'inizio della pandemia, sì. E io sono un ballerino, quindi teatri, io dove lavoravo in crociera. I passeggeri vengono suddivisi tra regionali e lunga percorrenza, dove si misura obbligatoriamente la temperatura sopra i 37,5, divieto di salire in treno, alta velocità o intercity. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Mascherine e controlli con i termoscanner per i passeggeri, poche file anche nelle ore di punta alla stazione Termini di Roma nel primo giorno di libera circolazione tra regioni, che ha visto un aumento dei treni in arrivo e in partenza. Dove state andando? Napoli, per la famiglia, abbiamo casa lì. Da quanto è che non andate a Napoli? Da Natale. Sto attraversando l'Italia. Da dove arriva? Dove deve andare? Miglia. 20 miglia, Reggio Calabria. Farmi operare agli occhi. Che su al nord ci vuole un anno. Milano, per motivi familiari. È da molto che non va a Milano? Sì, da febbraio. Sto andando a trovare la mia ragazza, ad Alassio. È da tanto che non la vede? Abitavamo a Londra insieme, sono più un mese e non la vedo. Approfitto della ripresa pure per andare a trovarla e farmi un po' di vacanza al mare. Situazione tranquilla anche all'aeroporto romano di Fiumicino, dove tra arrivi e partenze sono un centinaio i voli previsti in giornata, in gran parte nazionali o in ambito europeo, un incremento del 10% rispetto alla scorsa settimana. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E da domani in Friuli Venezia Giulia non sarà più obbligatorio utilizzare la mascherina all'aperto, quando si potrà rispettare il distanziamento sociale. L'Italia quindi riprende a muoversi tra regioni, ma cominciano a essere possibili anche all'interno dell'Europa, dove però restano dei paesi che ci chiudono le frontiere. Anche il tema degli spostamenti, ma soprattutto il dossier libico, è al centro dell'incontro a Roma tra il ministro degli esteri Di Maio e il suo omologo francese. Qualcuno apre, qualcun altro aspetta e qualche altro ancora conferma la chiusura. L'Italia della fase 3 ridisegna la sua mappa degli spostamenti possibili in Europa, una geografia che al momento non comprende l'Austria. Ancora troppi contagiati, spiega il ministro Alexander Schallenberg, che rimanda alla settimana prossima ulteriori valutazioni, mentre apre alla proposta della vicina Bolzano di consentire viaggi in alcune regioni. Dal 15 giugno invece via libera dalla Germania agli spostamenti all'interno dell'Unione Europea, fermo restando la verifica dell'evoluzione della pandemia, che comunque non è finita. Così anche il Belgio apre le frontiere ai paesi dell'area Schengen, mentre restano restrizioni come test o quarantena in Grecia e dall'8 giugno in Gran Bretagna, primo paese del continente per vittime da Covid. Ma in questa Europa che si rimette in moto arriva anche il mea culpa della Svezia, che supera la Francia per percentuali di vittime. Avremmo potuto fare meglio, ammette Anders Tegnell, l'epidemiologo contrario alla linea della chiusura totale. Ma ora è intorno al suo paese che gli altri stati della penisola scandinava creano invece un cordone sanitario. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto insignire dell'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica un primo gruppo di cittadini che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l'emergenza del coronavirus. Lo rende noto il Quirinale. Fra loro ci sono per esempio Annalisa Malara e Laura Ricevuti, due dottoresse, una di Lodi e l'altra di Codogno, che furono le prime a curare il paziente 1 italiano. E c'è anche Maurizio Cecconi, professore di anestesia e cure intensive all'Università Humanitas di Milano. Tra questi, Maria Rosario Maria Capobianchi, scienziata dello Spallanzani, che sarà ospite qui a Effetto Notte tra poco. Cambiano le immagini, parliamo dell'app Immuni, che è stata scaricata da circa 500.000 persone al momento in Italia. Cambiano le immagini usate per descrivere il funzionamento dell'applicazione sul sito istituzionale dedicato appunto all'app. Ora il neonato non è più in braccio alla mamma, ma al papà ed è la donna e non l'uomo che sta davanti al computer. La modifica messa a punto dopo le critiche bipartisan, accuse di ricorrere ai soliti stereotipi del maschio lavoratore e della donna che resta a casa con i figli. Sulla questione era intervenuta anche la la ministra per le pari opportunità e la famiglia Bonetti, spiegando che dalla ministra dell'innovazione Paola Pisano aveva già avuto rassicurazioni sul cambio della raffigurazione. Il ministero dell'innovazione fa sapere che tutta la campagna di comunicazione che sta per essere lanciata sull'app terrà conto di questa revisione. Meglio tardi che mai, comunque insomma si potrebbe già pensarci all'inizio. Comunque all'estero adesso la Cina e altri paesi asiatici come Cambogia e Filippine hanno rafforzato la loro censura dopo la pandemia di coronavirus, lo denuncia l'alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet. Il suo ufficio ha ricevuto informazioni su oltre una decina di operatori sanitari, accademici e cittadini comuni apparentemente arrestati e accusati di aver diffuso opinioni e informazioni sulla situazione relativa al Covid-19 o che hanno criticato la risposta del governo all'epidemia. E a proposito dell'epidemia, della pandemia, una notizia che viene dalla Germania: un nuovo focolaio di coronavirus a Göttingen in Bassa Sassonia ha portato alla chiusura delle scuole della città per questa settimana. E poi la Svezia: troppe persone sono morte a causa del coronavirus in Svezia, lo ha ammesso in un'intervista alla radio pubblica svedese Anders Tegnell, l'epidemiologo dietro la strategia soft adottata dal governo di Stoccolma contro il coronavirus. Nel paese scandinavo, che ha una popolazione di 10 milioni di abitanti, il virus ha ucciso 4.468 persone. E ora negli Stati Uniti, dove il capo del Pentagono, Mark Esper, ha detto di essere contrario a usare l'Insurrection Act, cui Donald Trump ha minacciato di ricorrere per fermare le proteste contro la morte di George Floyd. La legge consente di impiegare l'esercito contro le rivolte interne, ma il capo del Pentagono ha definito l'uccisione di George Floyd un crimine orribile e ha sostenuto che gli agenti coinvolti dovrebbero essere chiamati a rispondere per questo omicidio. Di nuovo in Italia, con una buona notizia: la multinazionale americana Jabil ha deciso di revocare i 190 licenziamenti annunciati per lo stabilimento di Marcianise in provincia di Caserta. L'annuncio della ministra del lavoro Nunzia Catalfo: per i lavoratori sono previste 5 settimane di cassa integrazione. E a proposito di occupazione, ad aprile, secondo mese di lockdown, gli occupati scendono in misura più marcata rispetto a marzo, lo certifica l'Istat. 400.000 occupati persi nei 2 mesi di lockdown, marzo e aprile, con il tasso di disoccupazione in flessione di quasi 3 punti e quello di inattività che aumenta in misura analoga. È la fotografia scattata dall'Istat, che certifica per aprile, secondo mese di blocco delle attività, un effetto dell'emergenza Covid decisamente più marcato rispetto a marzo, con un calo di 274.000 occupati che coinvolge tutti: donne, uomini, dipendenti, indipendenti, di ogni età. Il tasso di disoccupazione scende al 6,3%, minimo da novembre 2007, quella giovanile al 20%, a causa della scarsità di opportunità di lavoro, ci spiega Roberto Monducci dell'Istituto di Statistica. L'impatto sul mercato del lavoro, almeno nei mesi del lockdown, era assolutamente scontato. Meno scontato era il calo della disoccupazione, quindi è prevalso l'aspetto legato alla mancanza di opportunità di lavoro. Adesso la partita si giocherà ovviamente sul mese di maggio e nei mesi seguenti, quando in qualche modo ripartirà la domanda di lavoro. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di maltempo. Una perturbazione proveniente dal nord atlantico porterà nelle prossime ore un'ondata di maltempo sul nostro paese, prima sul nord e successivamente sulle regioni centrali, con piogge e venti forti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede, a partire dal tardo pomeriggio di oggi, precipitazioni diffuse che localmente potrebbero essere anche molto intense, accompagnate dai fulmini, grandinate, forti raffiche di vento su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Domani piogge temporali interesseranno anche la Liguria, l'Emilia Romagna e la Toscana. Sulla base dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha anche valutato un'allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Lombardia, mentre su Piemonte e sull'intero territorio di Liguria, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana l'allerta sarà gialla. Per chiudere parliamo di mare: oltre 5.400 chilometri di coste che possono vantare acque eccellenti in Italia, lo dice un rapporto sulla balneazione dei nostri mari. L'Italia del turismo, messa in grossa difficoltà dal coronavirus, può contare per la ripartenza su oltre 5.400 chilometri di acque di balneazione classificate con la classe più elevata, cioè eccellente. Lo rileva il rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, di cui fanno parte l'ISPRA e tutte le agenzie regionali per l'ambiente. Le regioni più virtuose sono Sardegna e Puglia, con il 99,7% di chilometri di coste balneabili con la classe più elevata. ma sono ben 9 le regioni che registrano oltre il 90% di chilometri di acque in cui si può fare il bagno tranquillamente. Dopo Sardegna e Puglia, anche Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Basilicata e Sicilia. Per quest'ultima regione il dato è relativo a 5 province su 8, mancando i dati di classificazione per le province di Agrigento, Catania e Messina. Bene anche i laghi, risulta dal rapporto Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, direi che adesso già insomma cominciando a immaginare un po' di possibilità di fare le vacanze, anche se c'è naturalmente anche il dibattito chi può, chi non può, facciamole in Italia, non facciamole all'estero, eccetera eccetera, di questo insomma ognuno penserà personalmente che cosa sia più opportuno fare. Ci fermiamo brevemente, questa è la sintesi della giornata, così cominciamo tra pochissimo ad approfondire alcuni temi con gli ospiti. Per i vostri messaggi ricordo pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, oppure SMS e WhatsApp, in particolare WhatsApp al 349 238 6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, 60 minuti ricchissimi come sempre di informazioni, di sintesi della giornata, di aggiornamenti in diretta, dei vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666 per i WhatsApp, e poi adesso cominciamo anche a addentrarci in alcuni argomenti con gli ospiti. Questa domanda non avrebbe bisogno di una risposta, si risponde da sé, però vabbè, rispondo lo stesso. Dice: perché le donne davanti al computer e l'uomo a casa, quel neonato, non è un'immagine sessista, dice questo ascoltatore, siccome appunto è stata cambiata l'immagine di Immuni sul sito istituzionale del Ministero. Lo stereotipo, forse questo ascoltatore non sa che cosa sia, significa che una certa persona, un certo luogo, diciamo, un certo genere, una certa categoria viene sempre associata, sempre alla stessa immagine, sempre agli stessi ruoli, in modo proprio costante nel tempo, senza neanche aggiornarsi rispetto all'evoluzione, per fortuna, della società. Ecco perché una donna davanti al computer e un uomo con un neonato non è un'immagine stereotipata e sessista, perché di solito viene sempre proposta il contrario, non per niente. Insomma, c'è stata questa polemica bipartisan da vari schieramenti su questa immagine della Immuni, che comunque è stata cambiata. Bene, su questo direi che possiamo addentrarci nella pagina politica. A distanza quindi di circa un mese dal famoso 4 maggio, in cui abbiamo riaperto l'intera filiera della manifattura, abbiamo riaperto i cantieri delle costruzioni, i numeri, possiamo dirlo con la relativa prudenza, ma anche con chiarezza, sono incoraggianti. Lo ha riaffermato oggi il presidente del Consiglio Conte, che avete già sentito all'inizio, a proposito, in una conferenza stampa che ha tenuto, a proposito dei dati incoraggianti che ci sono in Italia rispetto alla pandemia di coronavirus, però insomma sempre da guardare con prudenza. Lo ha detto nel giorno importantissimo, che è la terza tappa della fase 2, quello in cui ricomincia la mobilità libera tra le varie regioni, cadono, diciamo così, i confini, che è un passaggio fondamentale per la ripresa delle attività nel nostro paese, non solo della libertà di circolazione delle persone. Su questo saluto la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara, buonasera a tutti. Quindi Conte ha detto questa cosa, ma ha detto molte altre, ha detto serve un nuovo inizio, l'unità per ridisegnare l'Italia, anche rifacendosi all'appello di ieri del Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 2 giugno, no? E ha detto ai partiti, ha chiesto di collaborare alle riforme sul fisco, sul diritto allo studio, l'alta velocità di rete, l'utilizzo dei fondi europei, un piano di rilancio da fare, ha detto, con le opposizioni. Allora direi di sentire qualcuno dei vari passaggi, per esempio Conte che dice il tesoretto, parla dei fondi dell'Unione Europea, no? Che dovremmo ricevere, adesso vediamo in quali forme e con quali strumenti, dice vengono dall'Europa, non sono del governo. La somma che l'Europa metterà a disposizione dell'Italia non potrà essere considerata un tesoretto di cui potrà disporre liberamente il governo di turno, il governo in carica. Questa somma deve essere intesa come una risorsa messa a disposizione dell'intero Paese, di cui il governo in carica ha sicuramente la responsabilità di spesa sulla base di un progetto lungimirante condiviso con tutte le migliori forze del Paese. Ed è per questa ragione che intendo convocare a Palazzo Chigi al più presto, per una settimana, dobbiamo far presto, tutti i principali attori del sistema Italia per avere un confronto, raccogliere le loro idee, i loro suggerimenti. Quindi in pratica Barbara, il Presidente Conte ha detto, ha annunciato l'uso da parte d'Italia di fondi Sure, Bay e poi ha rinviato al Parlamento invece la decisione sul MES, però è come praticamente ha lanciato degli stati generali per l'economia, no? Invitando tutti i soggetti possibili, immaginabili, che possano contribuire a dare delle idee, a dare un contributo importante, no? nel rilancio dell'Italia. Sì, ha lanciato questo piano di rinascita, qualcuno giustamente ha fatto notare che il piano di rinascita per l'Italia era una cosa che aveva in mente il capo della P2, ma comunque al di là della battuta, certi termini, vero? Sì, insomma, al di là della battuta, Conte ha fatto un appello che arriva, come tu giustamente facevi notare, dopo quello forte, fortissimo del capo dello Stato. Devo dire che io non ho ritrovato nelle parole oggi di Conte questo invito alla unità nazionale, alla concordia nazionale, a questo spirito di ricostruzione a cui aveva fatto appunto riferimento Mattarella parlando proprio appunto del periodo post guerra e quindi della ricostruzione nata anche da forze politiche opposte. C'è un tema che è sempre lo stesso, che infatti anche le opposizioni denunciano e che è, come ha detto lo stesso Presidente del Consiglio, la sua preoccupazione, e c'è il fatto degli annunci, delle dichiarazioni di intenti, dei fondi, delle risorse messe a disposizione e poi della traduzione di tutto questo in fatti concreti. Cioè il tema è questo, e credo che lo scetticismo che un po' c'è nel paese, pervade il paese, è proprio la distanza tra le dichiarazioni e quello che è la realtà. Ma non perché, almeno questa è la mia opinione, non perché io penso che il Presidente del Consiglio o da altri esponenti politici, come dire, mentano sapendo di mentire. È peggio, io penso che non si rendano conto che forse adesso Conte certamente dopo 2 anni di governo se ne rende conto che è molto complicato in Italia riuscire a tradurre quelli che sono dei desideri, delle volontà politiche. E quindi noi, nonostante abbiamo, come ha ricordato oggi Conte, messo 80 miliardi di deficit sul tavolo, 80 miliardi vuol dire di debito in più, nonostante tutto questo non riusciamo ancora a vedere che tutti i cassi integrati sono stati pagati, che tutti quelli che dovevano avere i bonus li hanno avuti, cioè c'è uno iato tra quello che si mette in campo e quello che poi realmente arriva nelle tasche dei cittadini. Sentiamo, questo è per esempio, secondo me fondamentale. Sentiamo per esempio da parte dell'opposizione Maria Stella Gelmini di Forza Italia. Imprese e lavoratori sono in grande difficoltà. Il governo è in ritardo e per far ripartire il paese servono risorse a fondo perduto e una stagione di grandi semplificazioni. Mentre Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ha detto un'altra conferenza stampa di Conte mandata in diretta in contemporanea su più reti per dire che il governo farà tantissime belle cose, milioni di italiani assistono basiti chiedendosi con quale coraggio, dice Meloni, si facciano nuove promesse quando non sono ancora arrivate le risorse promesse in analoghe conferenze di 2 mesi fa. Dove stanno gli intoppi, Barbara Fiammeri? Nel senso, se questi soldi sono stati stanziati? Vorrei ricordare che sia la Gelmini che l'onorevole Meloni sono stati al governo precedentemente e quindi hanno avuto ruoli di responsabilità anche loro, no? In precedenza. Questi intoppi ci sono sempre stati. Faccio un esempio molto concreto. Cioè non hanno sburocratizzato. I fondi messi a disposizione dall'Unione Europea, che sono miliardi di euro, prima erano miliardi di lire, poi sono diventati miliardi di euro, e che erano messi a disposizione delle nostre aree svantaggiate, cioè del sud sostanzialmente, noi siamo il paese che ne ha spesi meno di tutti, cioè noi ogni volta dobbiamo restituirne una parte, perché non riusciamo a spenderli. Allora c'è chi ha detto colpa della burocrazia di Bruxelles, di questi burocrati delle regole europee. Peccato però che tutti gli altri paesi, tranne noi appunto e i greci, riescono a spenderli, quindi vuol dire che il problema ce l'abbiamo noi se tutti gli altri invece riescono a spenderli. Quindi questo per dire, e quando c'era il governo centrodestra, molte misure, anche anche, come dire, vi ricordate quelle sulle infrastrutture, i cantieri con Berlusconi che faceva vedere tutte le bandierine, i cantieri che sarebbero partiti? Di tutto questo, come dire, ne abbiamo fatto un po', non dico una macchietta, ma non perché anche lì Berlusconi non le volesse fare, ma evidentemente c'è qualcosa per cui poi alla fine, quando uno arriva al governo, certe cose non si riescono a fare. È un vizio italico, credo. Cos'è ecco, secondo te? Oggi Conte ha detto una cosa, ha detto una cosa secondo me significativa, quando ha detto che, parlando della possibilità, anzi della volontà del governo di modificare il reato di abuso d'ufficio, no? Perché molti funzionari non si prendono la responsabilità di firmare atti, di mandare avanti delle pratiche, di firmarli, di avallare lavori, gli atti, perché hanno paura poi che dopo siano abuso d'ufficio e poi danno erariale, quindi che poi col tuo patrimonio personale devi restituire dei soldi se ti vieni condannato per danno erariale. E allora Conte ha detto, stiamo rivedendo questa fattispecie. A questo proposito, ha aggiunto un'altra cosa Roberta, secondo me molto più interessante e che voglio vedere come la tradurranno. Sì. Ha detto, però la cosa vera è che qui in Italia si premiano, sembra assurdo, ma come dire, si invitano i dirigenti pubblici, chi ha delle responsabilità, a non fare nulla, cioè se non fai nulla non ti succede niente. Stai lì, buono, tranquillo. Il cantiere non apre. Non è che il funzionario, il dirigente che ha rallentato quella pratica subisce qualche danno, no, sta tranquillamente al suo posto e alla fine del mese prende lo stesso stipendio che se l'avesse accelerato. E quindi chi glielo fa fare? Dici? Senti, chi glielo fa fare? Quindi ci dovrebbe essere non solo il fatto che cambi il reato di abuso d'ufficio, ma secondo me dovrebbe esserci un incentivo oppure una penalizzazione, una sanzione per chi non rispetta i tempi. Barbara, allora Conte poi ha aggiunto, a proposito anche dei fondi, tu dicevi i fondi europei che non sono stati spesi nel tempo, eccetera, eccetera, la burocrazia e chi ha comunque avuto responsabilità di governo, Conte ha parlato della credibilità dell'Italia che dipende da come spendiamo i soldi. Sentiamo. Abbiamo un'occasione storica. La Commissione europea ha messo sul tavolo una proposta. Noi dovremo cogliere questa opportunità e saper spendere bene questi soldi. E proprio, vedete, sulla capacità di spesa, sul progetto di paese che elaboreremo, che sapremo realizzare, si misurerà anche la forza, la credibilità, non solo e tanto del governo, ma del sistema Italia. Capito, Barbara? Quindi. Capito, il punto è che purtroppo l'ho sentito dire già altre tante volte. Sì. Sarà la volta buona questa? Punto di domanda. Diciamo che questa volta non abbiamo via d'uscita. Molte alternative, perché il rischio che noi corriamo in questa fase storica è di un ulteriore divario tra l'Italia e il resto dell'Europa e quindi del mondo. Perché dico questo? Perché la parte più sviluppata e più all'avanguardia del paese, cioè il nord, in particolare il nord-est, Veneto, Emilia-Romagna e certamente la Lombardia, hanno subito dal Covid un gravissimo colpo che chiaramente le mette in difficoltà rispetto alla competizione con aree altrettanto forti del resto d'Europa, penso alla Germania, ma non solo. E quindi è chiaro che o tu in questo momento trovi le energie interne per fare un salto e, come dire, recuperare quello che il Covid, quantomeno recuperare quello che il Covid ti ha preso, oppure il rischio è quello che veniamo messi ai margini. E comunque, insomma, Conte ha offerto alle posizioni, alle opposizioni, a tutte le parti sociali, come dicevamo, un tavolo di confronto con gli stati generali dell'economia già dalla prossima settimana per elaborare questo piano di rinascita, anche se il termine è evocativo, diciamo, a volte su cose non proprio esaltanti. Barbara, però vorrei un commento tuo molto molto molto sintetico sulla manifestazione di ieri del 2 giugno del centrodestra unito, cioè Salvini, Meloni e c'era Tajani per Forza Italia, per Berlusconi. Sentiamo prima De Luca del PD, presidente della regione Campania, come ha criticato, e poi la risposta di Salvini in genere alle critiche. Ma ci vuole tanto a capire che fare il 2 giugno una manifestazione, quale che sia la forza politica che la promuove, è una provocazione ed è un'offesa alla dignità dell'Italia. Il 2 giugno dovete fare la manifestazione. Allora è stato un atto di provocazione, di volgarità da parte di qualche personaggio che, quando era al governo come vicepresidente del Consiglio, si è rifiutato di andare in piazza a celebrare il 2 giugno. Adesso pare che si sia convertito sulla via di Damasco. Sai che il problema degli italiani è la cassa integrazione? No, c'è il problema anche legato al mantenimento del distanziamento sociale e delle regole. Io ringrazio gli italiani che stanno dimostrando enorme buonsenso e cerchiamo di risolvere il problema di lavoro e di cassa integrazione che assilla gli italiani. Sai che l'accusa appunto assembramenti vari da Pappalardo in poi fino al centrodestra di ieri. Voi proprio 40 secondi, 35 Barbara di commento, non di più, non abbiamo tempo. Allora, personalmente non mi è piaciuta né la scelta del 2 giugno, perché penso che le feste nazionali siano le feste di tutti e quindi non mi piace mai quando diventano le feste di una parte. E poi non mi è piaciuto perché secondo me chi è il leader di una forza importante come i tre esponenti che erano in piazza non può non assumersi una responsabilità anche verso il messaggio che manda all'opinione pubblica. Sì. Vedere Salvini con la mascherina tirata giù è qualcosa che mi ha dato profondamente fastidio. Chiarissimo. Dice questo ascoltatore: ragione Barbara, la mancanza di una vera e oggettivamente misurabile meritocrazia è il vero problema della pubblica amministrazione, scuola inclusa. Vabbè, non è solo la pubblica amministrazione, non continua a tirare sassi sempre nella stessa direzione. Comunque Barbara, io quello che chiamo per chiudere il mostro di Loch Ness, tu lo conosci il mostro di Loch Ness? Non ho avuto il piacere. Non ho avuto il piacere. Ogni tanto ricompare tra le nebbie, così uno si era dimenticato, invece ricompare e sentiamo che cosa l'ho fatto praticamente risorgere, almeno temporaneamente, Renzi. Lo farei sentire, sì. Per come è messa la causa sul ponte sullo stretto, costa più non farlo che farlo. Cioè, oggi, per tutte le vicissitudini del passato, se non fai il ponte sullo stretto, lo Stato pagherà di più di quello che pagherà dovendo fare il ponte sullo stretto. Chiusa parentesi, pronto a qualsiasi dibattito nel merito su questo punto. Rispunta dalle nebbie, ce l'avevamo dimenticato, e allora Conte in qualche modo insomma ha colto questa occasione per commentare così. Quando ci metteremo a un tavolo, e quindi già ovviamente ci sono dei progetti, ma col decreto semplificazioni e con i fondi che arriveranno avremo la possibilità di programmare e realizzare questi progetti, mi siederò a un tavolo e senza pregiudizi valuterò anche il ponte sullo stretto. Barbara, abbiamo 22 secondi, quanti decenni ce lo porteremo dietro questo mostro di Logan? Ogni tanto ripare, ogni tanto si immerge nuovamente. Ma sai, sì. Roberta, in Italia, come dire, i tempi sono biblici, però Conte secondo me ha risposto bene, non l'hai fatta sentire nella dichiarazione che tu hai mandato adesso, sì. Aveva detto prima, no, ci abbiamo da fare l'alta velocità per Roma-Pescara, tutta la Sicilia in alta velocità. C'è un po' di roba prima. La costa ionica, però, come dire, prima del ponte ne abbiamo da fare. Mi par di sì, strano che poi era un mantra questo di Berlusconi, lo ritira fuori Renzi. Comunque, cara Barbara, dice questo ascoltatore, con rima Mauro Giordano Fiammeri, i politici chiacchieroni li fate neri, così dice bontà sua, va bene, grazie Barbara Fiammeri, ben presto, grazie a voi, buonasera, ciao, buona serata, ci fermiamo molto brevemente, voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che lì per voi giorno e notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure i WhatsApp al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera, orchestrata e diretta da Roberta Giordano. C'è un ascoltatore o ascoltatrice che dice: gli stereotipi, come li chiamate voi, sono stati alla base della nostra convivenza, ma evidentemente adesso bisogna essere politicamente corretti per essere alla pace. Gli stereotipi non sono stati alla base della nostra convivenza e non può essere convivenza se c'è qualcuno che soggiace sempre e qualcuno che invece ritiene di essere di serie A. Se questi sono ancora i punti di vista di qualcuno, ecco dove sta la zavorra che ci impedisce di andare un po' più avanti di dove siamo. Comunque adesso parliamo di cose molto importanti. Ringrazio Giuseppe che scrive: buonasera dottoressa Giordano, per l'Italia oggi è una giornata storica, speriamo di alzarci economicamente e moralmente. Non capisco comunque la posizione del cancelliere austriaco, sembra di volerci ostacolare in ogni modo, bisognerebbe che il nostro ministero degli esteri si facesse un po' sentire. Infatti Di Maio è occupato in questi giorni in varie missioni all'estero, proprio per riallacciare un po' i rapporti dal punto di vista diplomatico. Per oggi se l'è presa direttamente con l'Austria, insomma, dicendo che gli individualismi, gli egoismi in Europa non fanno altro che rischiare di sgretolare l'unità del continente. Adesso però parliamo di del fatto che in questo stato di questa lunga emergenza, che comunque non è finita, anche se piano piano stiamo cercando un po' tutti di tornare alla normalità con il virus ancora in circolazione, come ha ricordato Conte, e la grave crisi economica che insomma ci trascineremo purtroppo ancora per un bel po', in questa emergenza ci sono state delle persone e anche delle intere categorie che in tanti modi diversi hanno dato battaglia al virus, no? Come le donne e gli uomini, tra i medici, infermieri, operatori sanitari e anche tante categorie che hanno permesso di assicurare giorno per giorno i servizi essenziali, dalle cassiere agli addetti alle pulizie, ai trasportatori. A queste persone, appartenenti a queste preziose, imprescindibili categorie, il Presidente della Repubblica Mattarella oggi ha voluto dare un importante riconoscimento e così ha nominato 57 Cavalieri della Repubblica. Ha concesso questa onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica a un primo gruppo di cittadini che, si legge, si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l'emergenza coronavirus. Fra loro ci sono per esempio l'infermiera di Cremona, che vi ricordate quella foto che è diventata il simbolo di questa emergenza, che crollò stremata sul computer, poi anche si ammalò a sua volta, poi guarì, il rider che ha comprato 1000 mascherine per la Croce Rossa, le due dottoresse, una di Lodi e l'altra di Codogno, che furono le prime a curare il paziente 1 in Italia, e poi Maurizio Cecconi, professore di anestesia e cure intensive all'Università Humanitas di Milano, definito da JAMA, che è il giornale dei medici americani, uno dei tre eroi mondiali della pandemia, fino alla preside del quartiere Zen di Palermo, che ha organizzato una raccolta di vecchi PC per i suoi studenti. E non poteva mancare tra questi cavalieri del lavoro Maria Rosaria Capobianchi, a capo del team di ricercatori dell'Istituto Scientifico Spallanzani di Roma, grande eccellenza italiana per la virologia, in particolare tra le principali realtà sanitarie di ricerca che hanno lottato contro il coronavirus, che ha contribuito col suo team a isolare il coronavirus. E subito la saluto. Professoressa buonasera, Capobianchi, buonasera, grazie della sua presenza, della sua disponibilità. Lei si è detta stupita, grata e compiaciuta, grata e compiaciuta si può capire, stupita, voi siete tra i primi al mondo che avete isolato il genoma del coronavirus, quindi diciamo grande merito, sì. No? Tra i primi sì, è un grande merito e di questo appunto non facciamo mistero. Però ovviamente è stata un'azione iniziale, seguita poi dall'isolamento del virus in numerosissimi altri laboratori. Ora, qual è stato il vantaggio che ci ha conferito l'essere fra i primi a isolare il virus? Avere a disposizione il virus per studiarlo, il virus per mettere appunto all'inizio, proprio all'inizio, delle attività diagnostiche e la ricerca degli anticorpi, che ha dovuto attendere qualche mese prima di poter contare sui metodi commerciali, e quindi questo ci ha dato a noi, ma ha dato anche alla comunità scientifica, alla quale noi abbiamo subito messo a disposizione il virus, che è stato distribuito tramite una serie di circuiti di distribuzione di ceppi certificati e pienamente caratterizzati, e ha dato la possibilità di condividere le esperienze, di condividere i materiali e le risorse per approntare la risposta. Oggi si può contare su una risposta che è pienamente matura sul piano della disponibilità dei prodotti di laboratorio, però questo non era all'inizio di febbraio, quando non c'erano metodi commerciali, la diagnostica era limitata a pochi laboratori, quindi avere a disposizione il ceppo virale ha dato un grande impulso. Certo, quindi il paese e il sistema sanitario, il governo stesso dipendevano da voi, da quello che riuscivate a trovare, perché poi così si sarebbero adottate le misure necessarie, no, per il sistema sanitario pubblico, per arginare il coronavirus. Senta, che periodo è stato visto dal di dentro questo? Scusi, mi dice la domanda che non l'ho capita bene. Dicevo, che periodo è stato questo dell'emergenza visto dal di dentro, da una come lei, una scienziata che insomma correva contro il tempo per studiare il coronavirus, no? Quindi per dare possibilità di terapie e di diagnosi più efficace, come diceva. Sì, è stata ed è tuttora una corsa contro il tempo, con una sfida poderosa sia sul piano di conoscere il virus, di capire. Ci sono tanti ancora interrogativi che sono aperti e non sono ai quali si attende una risposta. Per esempio la patogenesi dell'infezione. Noi non sappiamo, il virus è un virus citopatico, quindi uccide le cellule che infetta, però è un virus delle vie aeree, delle vie respiratorie. Perché poi ci siano tanti danni così profondi e così diffusi nell'organismo? È un risultato di un meccanismo complesso che coinvolge non soltanto la capacità del virus di uccidere le cellule, ma coinvolge tutta la risposta dell'organismo che non è ben diretta contro i meccanismi difensivi, ovvero sia una parte di questi meccanismi è esagerata, per cui si traduce in una risposta infiammatoria esagerata con l'innesco di una serie di processi dannosi che poi determinano la coagulazione. Quindi restano ancora molte cose da capire, professoressa Capobianchi, però lei cosa pensa a questo punto della situazione rispetto alle terapie? Poi ci sono i vaccini, ce ne sono due, uno in collaborazione tra l'Italia e la Gran Bretagna, di cui ho parlato varie volte qui a Effetto Notte con i protagonisti, con i ricercatori, un altro italiano, un altro annunciato oggi dal virologo della Casa Bianca Fauci. Qual è lo stato dell'arte secondo lei? Lo stato dell'arte per i vaccini è che ci sono tantissime iniziative, si arriva forse al centinaio di modelli di vaccini inizialmente avviati, sono tutti candidati vaccini. Prima che un candidato vaccino arrivi a essere dichiarato potenzialmente efficace ci vogliono tanti passi. Intanto il grosso dei vaccini è ormai le piattaforme sono quasi tutte su base di costruzione di vettori di espressione oppure utilizzo di molecole di acido nucleico così come tali che vengono fatte penetrare nelle cellule. E quello che però è il grosso interrogativo è che mentre noi oggi abbiamo a disposizione la ricerca sia degli anticorpi e basta, oppure degli anticorpi che hanno capacità neutralizzante, quindi degli anticorpi con potenzialità protettive, ma siamo anche in grado di misurare la capacità delle cellule del sistema immunitario di rispondere e quindi di combattere l'infezione. Tutti questi parametri che ormai sono a punto e si misurano bene, noi fra questi non sappiamo se e quali sono i veri correlati della protezione. Quindi qui è il grosso interrogativo che si apre davanti per capire se veramente noi adesso tutti i vaccini vengono testati per capacità di indurre anticorpi neutralizzanti e immunità cellulare, ma oggi non sappiamo se questo tipo di risposta sia in grado di proteggere dall'infezione. Chiaro. Perché ricordiamo, non è un'infezione sistemica, questo per lo più è un'infezione che inizia attraverso le vie respiratorie. Quindi dobbiamo ancora capire qual è il parametro che indica l'efficacia della protezione. Quindi c'è ancora un grosso interrogativo. Un po' di strada da fare. Professoressa Capobianchi, la devo chiamare cavaliera quindi da oggi in poi, giusto? Beh, la cosa vedi, mi fa sorridere perché io ci deve fare l'abitudine. È una cosa dura. Io non sono nemmeno abituata ad essere chiamata professoressa, ma semplicemente dottoressa, perché in realtà io mi sento una persona sul campo, una guerriera, ecco, una vera guerriera dai meriti straordinari. Sì. La ringraziamo tutti e l'abbracciamo veramente per essere stata uno dei protagonisti, almeno qui in Italia, di questa battaglia dura contro il coronavirus. Grazie Maria Rosaria Capobianchi dello Spallanzani di Roma. Grazie a voi. Grazie a tutti. E buon buonasera. Lavoro ancora. Grazie. Buonasera. Viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, un ascoltatore che chiede niente accesso in Austria, mi sto strappando i capelli, bacioni e complimenti dice Enzo da Ravenna, cioè, cosa me ne importa, è vero, però insomma qualcuno invece diciamo il confine col Brennero eccetera interessa purtroppo, il fatto che in Europa ci siano dei confini, delle barriere crea non pochi problemi. Adesso però parliamo invece parte del fatto che appunto da oggi, come dicevamo, sono possibili di nuovo gli spostamenti tra le regioni. Tanto si era dibattuto, sapete, tra polemiche e tensioni, passaporto sanitario di Sardegna e Sicilia, adesso invece si parla di registrazioni su un modulo apposito online per la Sardegna in particolare, ma anche per la Puglia. E poi dicevamo, quali sono però le misure che ancora restano in vigore? Intanto il Ministero dell'Interno, il Viminale, ha fatto sapere che la fase 2 si chiude con 34.000 sanzionati e 4,2 milioni di controllati, quindi 34.000 sanzionati. Che cosa rimane adesso in vigore delle regole dei vari decreti del Presidente del Consiglio? Lo chiediamo, niente proprio di meno che naturalmente, al dottor Girolamo Laquaniti, presidente e portavoce dell'Associazione Nazionale dei Funzionari di Polizia. Bentornato, dottor Laquaniti. Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori. Quindi niente più autocertificazione, questa l'abbiamo appallottolata e basta, no? Speriamo di archiviarla definitivamente. Sempre. Sì. Così come speriamo di archiviare tante limitazioni. Per ora restano le limitazioni che credo ormai tutti conoscono e che la cui violazione comporta comunque una sanzione, che è quella della distanza interpersonale, dell'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi. Attenzione anche ovviamente per i gestori di locali di tenere distanziati i luoghi dove sedono le persone. In questo caso è prevista anche la sanzione della chiusura temporanea dell'esercizio. E ricordiamo soprattutto una cosa, che per tutti coloro i quali dovessero essere in quarantena resta l'obbligo di divieto assoluto di muoversi. In questo caso la sanzione è penale, perché è vero che siamo nella fase 3, purtroppo però ci sono ancora persone positive che devono necessariamente rimanere a casa, e quindi in questa fase è bene ricordarsi che questo tipo di movimento non è possibile per chi è positivo, così come chi ha temperatura superiore a 37,5 si deve rivolgere alle autorità sanitarie. Tra l'altro, Laquaniti, è vero che per esempio in aeroporti, in stazioni c'è, è obbligatorio, no, la misurazione della temperatura corporea? Sì, poi ecco, ognuno che fa accedere un luogo aperto al pubblico un soggetto può predisporre delle, posso dire, dei controlli. In molti supermercati la clientela può accedere solo se si sottopone alla misurazione della temperatura corporea. In questo caso è chiaro che chi consente l'accesso può mettere dei sistemi di controllo a cui un soggetto può sottoporsi se vuole entrare, se non vuole sottoporsi non entrerà ovviamente, questo è automatico. Eliminiamo tutti i discorsi ovviamente su aspetti che sono consigliati ma che non sono obbligatori, per quanto riguarda analisi o per quanto riguarda anche la sottoposizione di alcuni questionari che potrebbero essere di cui potrebbe essere richiesta la compilazione nelle come dicevo stazioni. Per esempio sì, ho alcune regioni su la City Online. Però per chiudere, Laquaniti, gli assembramenti restano comunque vietati, no? È quello che dicevamo prima, resta abbiamo visto le manifestazioni di questi giorni, in particolare di un certo ex generale dei Carabinieri, come sarà diventato ex generale dei Carabinieri, anzi quando lo era, non si capisce. Comunque, mi risulta sì, che in tutti i casi in cui vi siano degli assembramenti, molti dicono, dice, ma perché non intervenite immediatamente? Perché intervenire immediatamente vuol dire magari creare situazioni più rischiose e peggiori di ordine pubblico. Ma siccome per fortuna esistono le telecamere, esistono altre forme di documentazione, diverse sono le persone sanzionate, diverse sono le persone denunciate per aver violato questi obblighi. Ecco, che non passasse il concetto di impunità. L'obbligo della distanza interpersonale resta, rimane un obbligo, resta assolutamente. Grazie dottor Girolamo Laquaniti, sempre indispensabile. Grazie, a voi. Grazie buon lavoro. Assolutamente, grazie di nuovo, buona serata. Buona serata e buona continuazione. Ora, dicevo che da oggi sono di nuovo possibili gli spostamenti, e dopo questo lungo dibattito di chi voleva il passaporto sanitario per approdare sull'isola, in caso della Sardegna e della Sicilia, poi invece si sono un po' ammorbidite le posizioni, però si chiede comunque, per esempio, per quanto riguarda la Sardegna e la Puglia, di compilare, anche se non obbligatorio, però in realtà poi danno dei bonus, un modulo online. E c'è poi l'ordinanza del presidente della Regione Lazio, Zingaretti, nonché segretario del Partito Democratico, che prevede dei controlli serrati con misurazione obbligatoria delle temperature in porti, aeroporti e stazioni. Voglio parlare con l'assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio, che è Alessio D'Amato. D'Amato, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Quindi è obbligatorio, se si arriva nella vostra regione, nel Lazio, sottoporsi alla misurazione della temperatura. Questa è la... Sì, ma questo diciamo già è previsto in un DPCM nazionale che prevede che chi ha più di 37,5 di febbre stia a casa e contatti il proprio medico, per cui noi abbiamo ribadito questo concetto e fatto in modo che chi arrivi a Roma, nel Lazio, possa avere la temperatura misurata e di conseguenza anche accedere ai servizi sanitari qualora la temperatura superi i 37,5. Però D'Amato, voi controllate negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni, ma chi arriva in macchina? Lo so, questo è un tema vero, purtroppo diciamo non è che possiamo avere modalità che sono presenti in tutte le caratteristiche dei trasporti, è più facile in aereo, è più facile in treno. In macchina ci affidiamo molto anche alla responsabilità dei cittadini e coloro che hanno una temperatura superiore ai 37,5 dovrebbero chiamare il proprio medico o comunque il numero verde che noi abbiamo messo a disposizione. Siete comunque, per chiudere, D'Amato, evidentemente preoccupati ancora per la questione delle riaperture di tutte le regioni, immagino, pensiate alla Lombardia in particolare? Beh, anche oggi la Lombardia fa più dei 2/3 dei casi nazionali, per cui è una preoccupazione legittima, cerchiamo di controllare i flussi e di fare in modo che la ripartenza venga in sicurezza. Mi dica solo una cosa, c'è un ascoltatore che dice, ma il controllo sarà anche per chi è in treno o è solo in transito o solo chi arriva, chi approda nel Lazio? No, in treno, con i treni alta velocità intercity in tutte le stazioni di partenza e poi chi arriva nel Lazio ovviamente verrà controllato anche all'asilo. Direttamente. Grazie Assessore Alessio grazie D'Amato, grazie buon grazie lavoro. Grazie. Assessore alla Sanità del Lazio. Adesso ci colleghiamo subito con gli Stati Uniti perché il nostro Marco Valsania ci fa, ciao Marco, sinteticamente volevo una tua corrispondenza su quello che sta succedendo ancora per gli scontri negli Stati Uniti per la morte dell'afroamericano George Floyd. Vedo anche che il capo del Pentagono, insomma, si è molto smarcato dal presidente americano Trump oggi. Sì, oggi diciamo due sviluppi che potrebbero essere in parte cercare di essere distensivi, tra virgolette, delle tensioni o risposta comunque alle rivolte. Da una parte il Pentagono, il Mark Esper, il segretario della difesa, ha preso le distanze da Donald Trump dicendo che non intende, non c'è in programma alcun ricorso alle forze armate, all'esercito nelle strade americane, e di più una 1600 soldati che hanno stati mobilitati alla periferia di Washington in caso di necessità sono stati rimandati, sono rientrati alle loro basi. Questa è la primo sviluppo. Il secondo, l'incriminazione di tutti e quattro gli agenti di polizia responsabili dell'omicidio di George Floyd. Finora è stato incriminato uno solo per omicidio di terzo grado. Volontario, vedo. Quella accusa adesso è stata alzata a omicidio di secondo grado, quindi diciamo che potrebbe appunto essere diciamo anche quasi non intenzionale, ma comunque un omicidio, un grado di omicidio più grave. E gli altri tre agenti che hanno presenti e hanno partecipato comunque al soffocamento di Floyd sono stati incriminati come complici materiali nell'omicidio. Chiaro, quindi insomma una cosa sempre più esplosiva, che comunque insomma per quanto riguarda la famiglia di George Floyd questo è un passo importante verso la giustizia, quantomeno l'incriminazione e l'arresto di questi agenti. Grazie a Marco Valsania da New York. Ciao Marco, sentiamo le 22.